Siamo al telefono appunto con Booming 2, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao. Allora, la prima cosa, geolocalizzo appunto dove sei, tu ti trovi a Palermo e ti volevo chiedere se state esportando l'esperienza di resistenza in Cirenaica, perché abbiamo visto qualcosa del genere, insomma. Sì, sì, sì, esatto, in questi giorni abbiamo realizzato una camminata, un grande rituale ambulante contro il colonialismo, un percorso di quasi 18 chilometri in giro per la città, evocando gli spettri del colonialismo italiano, modificando nomi di strade, rispondendo a simbologie legate al periodo coloniale e incontrando persone che in città esorcizzano quegli spettri, facendo accoglienza, interazione con tutte le persone che a Palermo arrivano, si muovono, chiedono un rifugio e un aiuto. Ecco, quindi insomma siete sempre molto molto attivi, al punto che appunto domani esce in libreria il vostro nuovo romanzo Prolet Cult, spero che la pronuncia sia questa, immagino. Così, sì, sì. Esatto. Sì, sì, poi probabilmente un russo lo pronuncia meglio, ma... Sì, beh, quello no. Senza dubbio, rispetto anche a me. Come già ti dicevo fuori onda, io non ho letto il romanzo, per cui procederò per indizi e ti farò delle domande sugli indizi che abbiamo raccolto, un po' li avete diffusi anche su JAP, e quindi io comincerei dalla copertina fantastica che avete fatto circolare già da qualche giorno, una copertina che ritrae una falce e martello composta da razzi e satelliti spaziali, se non sbaglio realizzata da Riccardo Falcinelli. Ti chiedo di raccontarci questa copertina. Sì, allora è un manifesto sovietico degli anni 60, nella sua versione completa la falce e martello composta da satelliti si staglia su un cielo pieno di costellazioni e una scritta in russo dice "La nostra costellazione brilla". Riccardo Falcinelli l'ha rielaborata appositamente per la copertina del romanzo ed è un'allusione al fatto che in questo libro noi facciamo reagire, facciamo esplodere dentro all'Unione Sovietica del 1927, dentro diciamo ai vent'anni di 10 anni prima della rivoluzione, 10 anni dopo. Facciamo esplodere un elemento fantascientifico, cosmico, extraterrestre, e quindi l'allusione al cosmo e allo spazio è per questo motivo. Certo, ecco, Prolet Cult era un'organizzazione culturale educativa proletaria, questo almeno come dice Wikipedia, fondata nel 1917 secondo le indicazioni teoriche di Aleksandr Bogdanov, che è un nome che circola già nella quarta di copertina, quindi immagino sia uno dei personaggi centrali. Sì, diciamo che è il coprotagonista del romanzo, è un personaggio realmente esistito, a differenza dell'altra protagonista che invece è di fantasia, ed è il personaggio attraverso il quale abbiamo cercato di raccontare appunto la rivoluzione, gli anni prima e gli anni dopo, attraverso quello sguardo obliquo che sempre cerchiamo di gettare sui periodi storici, perché Bogdanov è un personaggio molto eclettico, è stato organizzatore di rapine in banca con le quali i bolscevichi si sono finanziati negli anni subito successivi alla tentata rivoluzione del 1905, è stato un filosofo, un teorico che ha cercato di coniugare il marxismo con le nuove teorie scientifiche che allora cominciavano a fare capolino, la teoria della relatività di Einstein, il cosiddetto machismo, cioè una nuova teoria della materia alla luce dell'elettromagnetismo, e cercando di fare questa fusione fece molto innervosire Lenin, che non a caso scrisse il suo unico libro veramente di filosofia proprio per smontare le teorie di Bogdanov. Ma poi Bogdanov fu anche autore di fantascienza, il primo autore di fantascienza russo, con un romanzo pubblicato nel 1908 intitolato Stella Rossa, e fu un medico che cercò di sperimentare una nuova terapia chiamata da lui comunismo fisiologico, nel quale appunto ci si sarebbe curati a vicenda scambiandosi il sangue, e quindi l'abolizione della proprietà privata anche del proprio sangue sarebbe diventata la base per una società più salutare, dove la salute fosse distribuita tra tutti, e quindi di una società più giusta e della società futura, diciamo. Certo, ecco, voi su Giappa avete detto che non è un romanzo storico, come avete fatto da Q fino all'Armata dei Sonnambuli, cambiate un po' approccio, si parla di crossover, diciamo così, che è un genere che per chi è nato musicalmente negli anni 90 è molto noto, però cosa intendete? Ma guarda, su questo penso che ci sarà un po' di dibattito tra i lettori, cioè su quanto effettivamente ci siamo allontanati dalla tipologia del romanzo storico alla Wuming, se vogliamo, e quanto invece Proletkult in fondo sia la prosecuzione di una traiettoria senza brusche svolte, già percorsa prima e in parte già accennata da Armata dei Sonnambuli, perché secondo noi qui il tentativo che noi facciamo, diverso dal solito, è quello di introdurre un elemento del tutto inverosimile da un certo punto di vista all'interno di un contesto storico, come sempre ricostruito minuziosamente, nel dettaglio, con attenzione alle fonti, agli archivi, e mentre appunto in un romanzo, per esempio, come l'Armata dei Sonnambuli, avevamo introdotto tanti elementi di fiction, però mantenendo sempre una radicale verosimiglianza, in modo che questi elementi non fossero facilmente riconoscibili da chi non aveva una conoscenza storica approfondita del periodo, ma potessero essere scambiati per eventi storici, per fatti storici. E in questo caso qui no, in questo caso qui l'elemento fantascientifico extraterrestre di cui parlavo prima è molto evidente. Abbiamo lasciato aperta la possibilità per i lettori di spiegarselo anche, diciamo, in una maniera razionale, se vogliamo. Quindi chi volesse non credere ai marziani potrebbe trovare la spiegazione nelle pagine di Proletkult, però questi marziani ci sono, e di conseguenza, insomma, noi lo sentiamo come una presa di distanza piuttosto radicale da quello che abbiamo fatto finora. Per continuare allora la presentazione di Proletkult, il nuovo romanzo dei Wuming, noi siamo al telefono con Wuming 2. Ci sono due citazioni che avete fatto circolare, se non sbaglio sono presenti anche sul libro, di cui ti voglio, insomma, chiedere conto. Una è di Paolo Vinti, che dice: l'ipotesi è la strutturazione della libertà nello spazio, l'ipotesi è la costruzione e strutturazione di abolizione di limiti. E l'altra di Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, che dice: la terra è la culla della mente umana, ma non si può passare la vita nella culla. Quindi, insomma, l'immaginario dello spazio ci tenevate, insomma, a farlo presente. Sì, perché un po' appunto è l'elemento che sicuramente fa saltare agli occhi la differenza di cui parlavo prima del piccolo stacco musicale tra quello che abbiamo fatto finora con il romanzo storico e quello che abbiamo cercato di fare con questo libro. Paolo Vinti era un compagno al quale volevamo molto bene, di Perugia, che faceva sempre questi interventi immaginifici tutte le volte che andavamo nella sua città a presentare libri, appunto parlando molto spesso del cosmo, di un cosmo rosso, di un universo socialista, e questo in effetti si collega sia con il nostro romanzo che con quello di Aleksandr Bogdanov, di cui parlavo prima, Stella Rossa del 1908, che tra l'altro in occasione dell'uscita di Proletkult viene anche ritradotto e ripubblicato dalla casa editrice Alcatraz, non era più disponibile in versione italiana. Questo libro era stato pubblicato da Sellerio negli anni 90, non si trovava più se non in biblioteca, ed è un libro dove Bogdanov immagina che su Marte, in quanto pianeta rosso, esseri molto simili agli umani abbiano fatto la rivoluzione ormai da 200 anni e quindi abbiano costruito una civiltà socialista, e che si rechino sulla Terra con l'idea di prendere contatto con gli uomini, perché appunto si sono in qualche modo resi conto di non poter fare il socialismo in un solo pianeta. Detto che poi appunto Stalin lanciò come slogan l'idea di fare il socialismo in un solo paese, per quanto molto grande come la Russia. Quindi c'è questa idea, diciamo, dell'interplanetarismo da parte dei marziani, che è anche la cosa più sorprendentemente contemporanea del romanzo di Bogdanov, e che poi abbiamo cercato di sviluppare nelle pagine del nostro libro, perché Bogdanov immagina che nonostante appunto i marziani abbiano costruito una società più giusta, la società senza classi, tuttavia non siano riusciti ad eliminare un conflitto fondamentale, quello tra l'uomo e il suo ambiente, tra l'uomo e la natura, e che quindi la costruzione del socialismo si sia basata purtroppo su un esaurimento delle risorse naturali, inquinamento, e che i marziani siano in difficoltà per questo, che il pianeta non gli basti più, e che quindi lancino appunto l'idea dell'interplanetarismo, lo slogan "proletari di tutti i pianeti unitevi". E ci è sembrato, insomma, che questo elemento fosse molto interessante sia rispetto alla contemporaneità di cambiamenti climatici, di rotture del clima, sia rispetto anche all'idea di scrivere un'utopia, come ha fatto Bogdanov, appunto l'utopia di questo pianeta socialista, che però ciò nonostante contiene lo stesso una contraddizione, un conflitto che la mette in difficoltà. Ed è un po' su questo tema che abbiamo cercato di lavorare. Quindi, insomma, come dire, parlate dei 20 anni a cavallo tra la rivoluzione di ottobre, ma parlate anche dell'oggi, mi pare di capire. Sì, questo sicuramente. Sicuramente anche una delle caratteristiche del libro è quella di parlare della rivoluzione d'ottobre per sottrazione. Probabilmente questa sarà anche una delle sorprese, per cui non la rivelo fino in fondo, però chi si aspettasse un romanzo sulla rivoluzione d'ottobre qui non lo troverà. Viene molto più raccontata attraverso ciò che è venuto prima e ciò che è venuto dopo, e attraverso tutte le discussioni che hanno segnato, diciamo, la fase precedente e la fase successiva. La rivoluzione in quanto tale la raccontiamo molto meno, però sicuramente sì, parliamo dell'oggi sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista, diciamo, dei problemi e del conflitto appunto tra l'uomo e la natura, ma anche con temi, diciamo, ancora più universali, più generali, che abbiamo poi trattato anche in altri romanzi, come il rapporto tra padri e figli, come si trasmette l'eredità di una rivoluzione da una generazione all'altra, come passare il testimone in qualche modo, perché anche Bogdanov ha questo problema, insomma, il nostro personaggio reale, e ce lo ha anche il personaggio fantastico che si chiama Danny, che ci siamo inventati, ha un problema di rapporto con i genitori, diciamo così, e quindi c'è sicuramente anche questo aspetto, questo tema. Ecco, come dire, alcuni indizi li abbiamo dati. Io penso che gli ascoltatori e le ascoltatrici, come dire, siano incuriositi da questa chiacchierata. Non resta che ricordare innanzitutto che Prolet Cult sarà in libreria da domani. Voi oggi avete già diffuso il capitolo 1, giusto? Sì, esatto, su Zap si può trovare il primo capitolo. Il libro in realtà si apre con un prologo, E poi c'è questo primo capitolo che è proprio l'entrata in scena di quell'elemento extraterrestre fantastico di cui parlavo, l'entrata in scena della protagonista apparentemente non terrestre, e quindi abbiamo appunto scelto proprio quel capitolo lì perché di nuovo è quello che forse è meglio di tutti gli altri, illustra il tentativo nuovo che abbiamo fatto con questo libro. Ecco, voi sarete poi in giro per un lungo tour, diciamo così, di presentazioni a Bologna. Quando sapete già quando sarà possibile assistervi? Sì, allora a Bologna ci sarà la festa di letteratura sociale Contrattacco al Centro Sociale VAG 61, il secondo fine settimana di novembre, che se non sbaglio è 8, 9, 10, e insomma il sabato, adesso non ho il calendario sott'occhio, mi pare che il sabato sia 10. Il 10, sì. Esatto, ci sarà al VAG 61 la presentazione bolognese di Proletkult, ma in contemporanea lo presenteremo, più o meno in contemporanea, l'8 novembre lo presenteremo a Roma, e già dalla prossima settimana cominciamo a girare tra Terni, Belluno, Trieste. Insomma, abbiamo già un calendario parecchio fitto.